na voce, na chitarra, io poche luna, e che voglio per fare una serenata, per sospira d'amore, chiano chiana, parola dolce, per un'innamorata, te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te, non posso più campare, una voce, una chitarra io poche luna, e come dolce che sta serenata, la bocca tu s'accosta più vicina, e tu ta stringi a me più appassionata, con una chitarra e un felice voce, con te vicina canta e soffrisce, amore. Non posso più scordare me te. E che voglio per fare una serenata. Parola dolce. Una innamorata, te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te, non posso più campare, una voce, una chitarra, io poche luna, e come dolce, che sta serenata. La bocca tu s'accosta più vicina, e tu ta stringi a me più appassionata, con una chitarra e un felice voce, con te vicina canta e soffrisce, amore. Non posso più scordare me te, una voce, una chitarra, io poche lune.